Sarà capitato anche a voi di cadere di faccia su cose sbagliate? Ho sbattuto le labbra, 10 punti alla testa, un ematoma, considere. Boy,